farmacia Moco. Farmacia, quello della dolce? Sì. Ma io l'ho visto a poco. Mi ha detto così, allora ho sbagliato. Capito? Esatto, sì. E poi c'era Leonardo, quello più piccolo. La moglie era Luce al mattino, che la chiamavamo Luce al casino. Lucchetto, Douglas, ne volevo elencare. Franco Douglas, te lo ricordo. Oh. Io sì. Lucchetto, Shadow 2 è morto. E io poi niente, buttami, un bel. Non è morto, ha finito la sua attività in pensione, è vecchietto anche lui. Certo che si trova, perché no? Però si è ritirato, lui non lavora più lo meccanico, capito? Gianni si è addormentato. No, non mi sono addormentato, stavo in bagno, si è aspettato. Siamo qua, e chi si è andato via? Per parlare a capito e ci trattiene. Lui e sì, qui erano tipi, dai, c'era più gente, c'era più tutto, dai, si faceva i giochi. Non è più come adesso, adesso non c'è più niente. No, io non ne ho, ce l'ho zero a QRM. Gianni si è sentato, andato in bagno. Ma in stazione fissa non ne hai tu? Altri tempi erano, capito? Purtroppo gli anni sono passati, la gente che è morta, che ha smesso, io lo stesso un bel po' di anni non lo sto più modulando. dicendo, ma la chi è stazione fissa? Non rientro. Ritratto sei già. No, città mai. Troppo lungo, raga. Va bene, ti tratti. No, che mi seguo fra poco io. Ripeti già. Ehi, vabbè, ma la passione è passione, già. Ci sono tante cose nuove, però si possono aprire sia l'uno che l'altro. Io uso computer, uso telefonino, ma uso anche baracchino. Mi piace di più che entrare su CB Talk, che è una cosa innovativa, ma a me proprio non mi intriga. Non mai ce la vediamo fare, una bella mensola, tanto da bricola già. Adesso per la gente io mi ero messo con cucito, che ha preso le misure, voglio mettere una bella mensola, messo tutti gli apparati ben assettati, no, a casina come ce l'ho adesso. A me sono ordinati. Vabbè, certo. No, io ho il mobile proprio, c'è un mobile che poi si chiude e sparisce di tutto. Non si vede nemmeno che ci sono le radio. Io ce l'avevo tempo fa, mobile, era nella faccia vista, capito, l'ho fatto. E vabbè, posso fare sempre io, perché attrezzatura ne ho fine che i porci, sto sempre comprando. Quindi, fai da te, lo posso fare benissimo. Ce l'hai poi, ripeto, un po' da tenere aperto, poi chiuso, per non si vede niente. Ma è bello invece che si vede tu altro. Io la vedo meglio così già. Non so, tu la vedi così, ma le donne no. A mia moglie non piaceva, ha fatto vedere, siccome io c'ero in camera da letto, e mi ha fatto fare un mobile al falegname, dai. Sì, ma scusa, e adesso dove ce l'hai? In camera da letto. E tua moglie non sta dormendo? No, mia moglie no. Thank you. so se apparati o tu. Ah. Non è una Midland mia, ho già. Una Midland, quella tua? Sì, sì, e c'era un altro nome che adesso non mi ricordo. Mi stava... Ho una scatola, l'ho vista proprio oggi, a te. Ho capito qual è. Quella che c'è anche Marco, forse. La 50 bidonda, c'ha tre radiali, e lo stiro lungo lungo, e poi c'è la carica con la cosa trasparente. Va bene, ecco. Va bene. Ok, meglio. Vabbè, dai, io me ne vado so quanto in cuore di, perché domani deve arrivare anche mio nipote, viene qua, che mi dà una mano, perché io ormai con lui nel disco dove che gioca non riesco a fare più nulla, non trovo un rimedio, casino. Signore e signori, io vi saluto, che domani mi devo stare presto. Devo fare un po' di cose. Statevi bene, buon coletti quando lo farete. E sì, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao, stammi bene, ciao. Vai per compagnia tu già, lui. Ciao Tonino, buonanotte, ciao anche a te, KP2, ben sentito, ci sentiamo, buona serata, anzi buonanotte. Ciao, già, buonanotte, ci sentiamo domani. Sentate se potrò dormire, buona serata. Ancora ci date. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte.